Non ascoltarli. Se non si chiedono, non capiscono il perché delle cose che fai. Vogliono accanto a loro solo una persona che li feliciti di quello che fanno. E solo per quella usano interesse, perché nella vita precedente erano degli esclusi o emarginati. Ora si fanno forza perché si sono armati con uno scudo, ma dentro di loro sono fragili come cristalli. Sono arroganti, egoisti e continuamente autoreferenziali, ma la ruota girerà. Scrittore, lo sai che non importa se vai in televisione, se non sei sulla bocca di chi conta davvero, se non cavalchi l'onda e tocchi il cielo. Non aspettarti nulla, ti prenderanno a calci, ti taglieranno come il grano con le falci. La tua doppia vita messaggera di affanni, ma portali con dignità, quattro stracci. Il mondo esterno passa nell'interno, dopo sul quaderno, legato come lacci per filo e per segno. I tuoi compagni, solo i tuoi quadretti, come abbracci. Scrittore, lo sai che non importa se vai in televisione, se non sei sulla bocca di chi conta davvero. Si fotta chi non sogna, venduti sulla forca, artista vola, sfonda quella porta. Scrittore, lo sai che non importa se va in televisione, se non sei sulla bocca di chi conta. Il sole con le nuvole combatte coi raggi e tu ti senti come leopardi. Non importa, sfonda quella porta, illuminami Dio con la voce e la rivolta. Buchi nell'acqua perché vivi nel fango, la tua penna indelebile ti toglie dallo stallo, ma muore dissipata lentamente un'emozione se diventi un leader in televisione. Scrittore, lo sai che non importa se va in televisione, se non sei sulla bocca di chi conta davvero. Si fotta chi non sogna, venduti sulla forca, artista vola, sfonda quella porta. Scrittore, lo sai che non importa se va in televisione, se non sei sulla bocca di chi conta. Mangi la carta, la vita, le emozioni, le voglie di vendetta sono come munizioni. Le chiavi di lettura, le stagioni, la cultura diranno sei un perditempo per natura, ma i poeti lavorano di notte fino a luna, sono come il vento, le tue canzoni muovono le statue senza essere interrotte. L'inquinamento acustico mediatico non le corrompe. Scrittore, lo sai che non importa se va in televisione, se non sei sulla bocca di chi conta davvero. Si fotta chi non sogna, venduti sulla forca, artista vola, sfonda quella porta. Scrittore, lo sai che non importa se va in televisione, se non sei sulla bocca di chi conta. Sudore nero, la lingua, le catene, il tuo segreto, solitario bandolero, la calda sonnolenza, l'alfabeto, la bocca infarinata di parole ti rendono completo come un infame, un agguato con le lame. La vita della fama ti lascia nel letame, e un vincitore vale quanto un vinto. Si perde nel bestiame di un labirinto, nel labirinto, nel labirinto, nel labirinto, nel labirinto, nel labirinto, nel labirinto. Si perde nel bestiame di un labirinto.